9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon ultimo giorno di gennaio, buon 31 gennaio e buon inizio di cose concrete di questa settimana. Abbiamo più volte nelle ultime settimane cercato di indicare esperienze concrete dal basso che tentano di richiamare la politica dal lungo sonno rispetto alle priorità dell'agenda nazionale, visto che da molti mesi sono altre la vicenda di cui si occupa. Oggi abbiamo un altro straordinario esempio concreto, lo trovate a pagina 8 del Corriere della Sera, e trovate oltre a questo appello oggi una serie di iniziative che partono e che ci illustreranno adesso i protagonisti, i sostenitori, i firmatari di questo che è un appello chiaramente e direttamente rivolto alla politica, al governo, all'opposizione, soprattutto al governo. Il titolo di questo appello che trovate a pagina 8 è "Diamo all'Italia una strategia digitale", e lo faremo illustrare adesso ai suoi sottoscrittori, che sono, questo è l'elemento rilevante, praticamente tutti i maggiori protagonisti del, non solo delle aziende dell'ITC, delle telecomunicazioni, di internet, del nostro paese e della comunità più ampia, non solo delle grandi aziende che anima la rete, ma sono poi anche intellettuali, artisti, eccetera. È una iniziativa dal basso molto ampia, molto energica, che chiede cose precise, le chiede perché da anni sappiamo, tutti quelli che ci occupiamo di questa faccenda, quanto tutti gli altri paesi, piccoli, medi, grandi, abbiano un piano nazionale che nel nostro paese non si è riusciti ad adottare. Se ne sono visti i risultati. Io ricordo solo due numeri iniziali, perché il resto li faranno persone che sono molto più competenti di me. Ci ha ricordato il Centro Studi di Confindustria poche settimane fa che se avessimo avuto ritmi, per esempio nell'ITC, negli investimenti dell'ITC analoghi a quelli del Regno Unito nel decennio pre-crisi, avremmo avuto un contributo al valore aggiunto nazionale superiore di 7 punti percentuali, significa praticamente 3,7-3,8 punti di PIL in più rispetto al totale a malapena 15% in 10 anni che abbiamo realizzato. Analogamente, sempre calcolo fatto dal Centro Studi di Confindustria, riuscire ad adottare in 5 anni tassi di penetrazione di internet e una componente di investimenti nell'ITC analoga tra 5 anni a quella che oggi nel Regno Unito, significherebbe quasi 4 punti di crescita in più, e sapete benissimo quale sia l'orizzonte della crescita attesa nei prossimi anni, a malapena l'1% anno. Ma questo è solo per dare una dimensione rispetto a ciò che tutto questo significa in un paese di piccola e media impresa, un'altissima percentuale di imprese che ancora oggi non è entrata in realtà nel mondo internet. Noi abbiamo nella graduatoria comparata delle piccole imprese una percentuale ancora straordinariamente elevata di aziende che a malapena usa i computer, ma non li utilizza orizzontalmente, verticalmente, in tutto ciò che questa tecnologia e le tecnologie dell'informazione consentono di immaginare, in tutte le logiche, rapporti con i fornitori, con i clienti, catene distributive, logica di immaginazione, produzione, realizzazione e proposizione dei prodotti. Ma ripeto, lascio la parola a loro. Mi piace, e io solo per questo sono tra i sottoscrittori, dichiaro il mio conflitto di interesse, mi piace l'idea che dal basso si prenda in mano il futuro di questo paese e si faccia capire alla gente che non è affatto vero che non si sa cosa fare. Un'agenda c'è, il problema è trovare qualcuno al vertice del paese che la abbracci e la pratichi. In questi anni non è avvenuto. Diamo un'Italia all'Italia dunque una strategia digitale. Abbiamo con noi in studio, intanto, tra i sostenitori e firmatari, abbiamo Stefano Quintarelli, imprenditore, uno dei pionieri della traduzione commerciale di Internet Italia e spesso nostro ospite. Buongiorno e grazie a Stefano Quintarelli. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E Alfonso Fuggetta, che è in studio anche lui qui con noi, e che insegna software engineering al Politecnico di Milano e guida come amministratore delegato CEFIA, che è il centro di formazione, ricerca e innovazione del Politecnico, appunto, nel campo dell'information technology. Grazie e buongiorno Fuggetta. Buongiorno a tutti. Allora, Quintarelli, ci illustra il contenuto e le tappe e come si articola oltre al manifesto, le iniziative che nasceranno in questo manifesto? Beh, intanto grazie per averci accolti ed ospitati. Se posso dire, questa qui è una cosa veramente nata dal basso, nata da un gruppo di persone che si è via via allargata dai primi di novembre fino ad oggi. Che cosa chiediamo? Chiediamo, l'ha detto molto bene lei prima, chiediamo alla politica, a tutta la politica, di occuparsi del tema digitale, che è il principale driver di crescita economica, di occupazione e di sviluppo, al di là di ogni ragionevole dubbio. Questo non perché non ci siano provvedimenti che riguardano il digitale, ma perché non c'è una regia, cioè non sappiamo dove andare, non abbiamo una linea di visione come altri paesi si sono dati. Allora abbiamo deciso di fare questo, abbiamo fatto una raccolta di adesione, abbiamo fatto una raccolta di risorse, di documentazione e abbiamo costituito una specie di dossier che mettiamo a disposizione di chi voglia cogliere l'idea, appunto, di dare al paese una strategia organica. Dove lo trovano gli interessati? Beh, allora una prima parte c'è sul sito, ma è una parte molto riduttiva perché non potevamo fare 10 pagine di documentazione. Cioè, ci sono anche elencati i contatti, oltre ai credits di tutte le persone che hanno collaborato, ci sono anche elencati tutti i contatti, quindi basta scrivere lì e ricevono tutta la documentazione che possono richiedere. Il sito è? Il sito è www.agendadigitale.org. Fortunatamente il dominio era libero e siamo riusciti a prenderlo. Successivamente a questa iniziativa, diciamo che ci siamo interrogati sul fatto se diventare un'associazione, se convocare gli stati generali, cioè quale grande iniziativa fare. E allora quello che abbiamo deciso in questa fase è intanto di lanciare l'appello e poi di vedere cosa succede. È chiaro che non tutti i sottoscrittori sono disponibili ad impegnarsi, cioè non hanno il tempo, la possibilità per impegnarsi in prima persona per fare delle cose. Quindi diciamo, dietro al cappello dell'appello ci sono tante persone. Una parte di queste, naturalmente professori, accademici, eccetera, sono anche a disposizione per dei follow-up. Ci saranno dei follow-up fatti appunto da queste persone come gruppi indipendenti. Una prima cosa molto semplice: il giorno 9 a Roma ci sarà un convegno dove alcune persone parteciperanno, dove hanno già confermato la loro presenza, salvo poi sconvolgimenti dell'ultima ora, alcuni esponenti dirigenti politici, e poi ci saranno altre cose di questo genere fatte da altre persone. Quintanilla, ha letto stamattina sul Corriere della Sera, c'è una lettera, un intervento del Presidente del Consiglio che replica all'editoriale della prima del Corriere di ieri, e il Presidente del Consiglio dice: un sottosegretario a internet. Bellissimo, ben venga il sottosegretario internet, ma qui non è solo internet, cioè all'interno della sezione risorse del sito c'è una piccola sezione di case history sulla Gran Bretagna, per far capire che non si tratta solo di internet. In Gran Bretagna il governo ha costituito un Technology Strategy Board, cioè un consesso di strategia per la tecnologia, dove ci si occupa di tecnologia, di digitale a tutto tondo, quindi non solo telecomunicazioni, che è importantissimo perché è un fattore abilitante, ma anche di nanotecnologie, di scienze dei materiali, di energia, cioè tutte quelle cose che vengono sconvolte dal digitale, perché parlare di digitale solo in termini di internet e software è come parlare di elettricità solo in termini di lampadine ed Enel, mentre invece l'elettricità alimenta tutto il mondo. Quindi cosa vogliamo fare noi, in quale direzione vogliamo andare? Questa è una cosa che l'Italia manca, una strategia organica. 161 paesi al mondo, secondo l'ITU, l'International Telecommunication Union, hanno una strategia per il digitale. Ce ne sono 10 che non ce l'hanno: San Marino, il Vaticano, l'Italia, qualcun altro. Io ricordo a chi fosse interessato, lo dico per completezza dell'informazione, a comprendere nella maniera più sintetica come il governo risponde fino a questo momento, prima di questo appello, a chi lo incalzava dicendo bisogna fare come tutti i grandi paesi e anche molti piccoli paesi, perché un piano digitale, un'agenda nazionale digitale se la sono data ormai una bella lista dei paesi da molti anni. Trovate, se cercate in internet, se fate una ricerca, il più recente articolo di Paolo Romani, che è ministro per lo sviluppo economico, risale all'8 di gennaio di questo anno. Fate la ricerca, troverete che c'è una lettera del ministro al gruppo di tutela dell'Espresso: internet e banda larga, ecco i tre piani del governo. Il governo sostiene di avere portato la banda larga in 2 anni a oltre 2,2 milioni di italiani. Posso certificare che il governo ha portato a 2,2 milioni di italiani il governo, ecco, quindi già questa frase, mi assumo la responsabilità di quello che dico, è una clamorosa e esplicita menzogna, perché quello che è avvenuto negli ultimi anni sono alcuni passi avanti di operatori privati, non il governo. Non è avvenuto niente di incentivato, se non per la parte che riguarda l'agenda elettronica, di cui oggi, se trovate un quotidiano concorrente del gruppo editoriale Sole 24 Ore, cioè Italia Oggi, oggi troverete ampiamente diffusi nella prima pagina a nome e con la fotografia del ministro Brunetta quanto ha fatto la sua agenda. Ecco, comunque questo è il primo punto. Poi il secondo punto è, sostiene che è il governo che ha realizzato il memorandum of understanding, di cui vi abbiamo già informato, quello realizzato il 10 novembre tra le maggiori compagnie innanzitutto telefoniche del nostro paese. Vi abbiamo più volte intrattenuto su tutti i problemi che restano aperti in quel memorandum of understanding, perché non è definita un'architettura di incentivi tale per cui possiamo avere la certezza che in quale modalità si risolve il problema della partecipazione dei maggiori settori del mercato per la realizzazione di un processo a tappo non solo limitato al digital divide. E poi in definitiva poi c'è il terzo punto, che dal mio punto di vista, mi assumo sempre la responsabilità di quello che dico, è in Italia forse responsabile del più del nostro gap, cioè il passaggio alla TV digitale. Sappiamo cosa la questione televisiva significa per la sua cointeressenza con la politica nel nostro paese. Temo che l'agenda televisiva abbia significato per il nostro paese gran parte forse della risposta, che non trovate comunque nell'appello, che è estranea ai motivi dell'appello, non vuole fare polemica. Io le polemiche un po' le faccio naturalmente per mio mestiere. Temo che la questione televisiva spieghi in qualche maniera anche il ritardo, che poi si deve anche a contrastanti visioni delle maggiori aziende, che poi siamo anche il paese che ha, lo ricordo a tutti prima di chiedere a Fuggetta, siamo anche il paese che ha la rete più estesa di fibra in tutta Europa, è quella che viene insomma dall'esperienza Fastweb, e siamo contemporaneamente però il paese che questa cosa non ha ancora risolto bene, come metterla insieme rispetto all'ammortamento della rete in rame dell'incumbent, dell'ex monopolista. La modalità ci sarebbe, non si chiede alla politica di sostituirsi alle aziende, ma di creare una cornice di prospettive. Fuggetta, dal punto di vista suo, questo appello a cosa concretamente può portare? E tentiamo di spiegare un pochino anche a chi ci ascolta e non è un esperto. In realtà i piani degli altri paesi, quelli a cui guardare come modello rispetto alla fotografia del ritardo oggi, che cosa ci insegnano? Che cosa prendere da dove per recuperare il gap? Guardi, io vorrei fare un semplice esempio. Si parla tanto di non intervenire nel sostegno, diciamo, alle imprese in maniera sussidiaria, anticompetitiva, che è una cosa assolutamente corretta. Però in tutti i paesi del mondo ci sono sostegni alla ricerca e all'innovazione per le imprese. Anche quando si parla degli Stati Uniti e si dice che, non so, che le grandi università americane hanno finanziamenti privati, si dimentica che il 60-70% di strutture come l'MIT sono finanziamenti pubblici delle enti governativi. E lavorano su straordinari programmi in cui ci sono pacchi di centinaia di miliardi di dollari del Quindi, governo. Quindi, se volessi dire per esempio due cose semplici che secondo me sarebbero necessarie: piani di ricerca, vera ricerca, non bisogna far fare l'università il mestiere delle imprese, piani di vera ricerca collegati all'ICT con finanziamenti mirati non semplicemente a dar soldi ma a ottenere dei risultati sul medio periodo. È un po' quella che era l'idea dietro Industria 2015, Bersani, Pistorio di qualche anno fa. E un altro tema secondo me molto importante, invece molto più legato all'innovazione, cioè al lavoro che fanno le imprese, sono i crediti d'imposta. Li hanno fatti in Francia, li stanno facendo in giro per il mondo, sono degli strumenti automatici. E quindi garantiscono risorse in tempi certi. Sono risorse che richiedono investimenti da parte delle imprese, perché avvengono nel momento in cui c'è un investimento da parte dell'impresa, e nel rapporto con l'università premiano la qualità, perché il primo credito d'imposta viene dato per tutti i contratti dati alle università da parte delle imprese. Quindi se l'università sceglie, se l'impresa sceglie un'università, è perché la ritiene competitiva, nel darle un contratto riceve un credito, quindi questo mette anche in competizione le università. Allora, queste sono due misure di cui tra l'altro in Italia si è parlato molto, per certi versi sono state abbozzate, lanciate, poi sono state sospese, poi facciamo il click day, in poche parole viene a mancare per gli investitori, per gli imprenditori e anche per esempio i centri di ricerca, quella continuità non tanto del singolo finanziamento ma di una strategia, per cui l'impresa o l'università è in grado di pianificare tempi, progetti e iniziative in quanto c'è un framework, come si diceva prima, condiviso e chiaro, che dà certezza e continuità alle attività di ciascuno. Ci ha raggiunto telefonicamente anche Giancarlo Capitani, che è l'amministratore delegato di Net Consulting, che coordina il rapporto annuale di Assinform, che è l'associazione italiana per l'IT. E buongiorno Capitani. Buongiorno. Vogliamo un secondo approfondire, ma c'è anche una responsabilità delle imprese del sistema produttivo italiano, di come è articolata la specializzazione produttiva per classi dimensionali. Sappiamo che è un punto debole, ma è anche una caratteristica del nostro mondo di impresa, nel essere arrivati in ritardo. Questo spiega certo una componente più bassa di investimenti privati, però è dalla parte del colpevole, l'impresa in qualche misura, o è dalla parte delle vittime, secondo lei? Io credo che le imprese siano dalla parte dei colpevoli. Le faccio un esempio lampante. Il nostro, si sa, è un paese di piccole e medie imprese, e se guardiamo le piccole imprese, che la cui numerosità equivale a circa il 99% sul totale delle imprese attive in Italia, ecco, questo 99% genera il 18% della spesa IT totale in Italia. Sto parlando solo di informatica. Sì. Quindi il sistema Italia dell'IT è un sistema sostanzialmente di vertice, cioè dove sono le grandi imprese a spendere. E negli ultimi due anni le grandi imprese, per reagire a una situazione di crisi, hanno fatto leva più sul cost saving, che ha penalizzato anche i budget IT, piuttosto che su un uso strategico dell'IT al servizio del miglioramento della competitività delle loro azioni sui mercati. Quindi il risultato complessivo, ben fotografato anche dall'ultimo rapporto Confindustria, è che il peso degli investimenti, in questo caso in ICT, in Italia sul totale degli investimenti fissi lordi non residenziali del 12% contro ad esempio il 26% del Regno Unito. Quindi questo è un elemento che determina un gap notevole anche nelle performance delle imprese. Rimane il fatto che il nostro è un paese fortemente in ritardo, utilizzando qualsiasi tipo di indicatore arriva a questa conclusione. Le dico che ad esempio la quota di valore aggiunto dell'ICT sul PIL è del 3,5% in Italia contro il 5% dell'Europa 27, che include quindi anche paesi a minor grado di sviluppo. La percentuale di famiglie che possiedono un accesso a internet a banda larga è del 39% contro il 56% dell'Europa. E via di questo passo. Allora io credo che l'Italia abbia veramente necessità e urgenza di un'agenda digitale. Lei chiedeva all'interlocutore precedente un esempio in Europa. Io credo che l'esempio migliore sia non tanto il tanto citato Digital Britain, quanto il Plan Avanza 2 spagnolo, che è stato lanciato in forma attuativa nel giugno del 2010 e che ha alle spalle un Plan Avanza 1 che è del 2004. Ora, il primo Plan Avanza si poneva l'obiettivo di favorire la diffusione dell'ICT nell'economia spagnola, e il Plan Avanza 2 invece si pone un obiettivo molto più ambizioso, che è quello del fare un piano di sistema che serva a garantire il rilancio della competitività dell'economia spagnola. Ora, noi siamo in ritardo su tutti e due aspetti, anche sul piano 1 spagnolo, perché appunto, come dicevo prima, illustrato attraverso quegli indicatori, noi siamo proprio in ritardo anche sulla diffusione, nonostante ci siamo dinamismo e propensione da parte. Aspetti, capitani, perché qui sai il collegamento telefonico, a proposito appunto di quello di cui stiamo parlando, sta rapidamente degradando. Eccoci tornati in studio, sono con noi Stefano Quintarelli e Alfonso Fuggetta. Stiamo parlando dell'appello che trovate a pagina 8 del Corriere della Sera di oggi, firmato da tantissimi protagonisti del mondo dell'ITC italiane, ma da intellettuali, giornalisti, uomini dello spettacolo. Il titolo dell'appello è: diamo all'Italia una strategia digitale. Stiamo tornando a indicarvi un esempio di come dal basso si indica con certezza ciò che sappiamo, ciò che tutti coloro che si occupano di questo sanno, di ciò che andava fatto e non è stato fatto, mentre abbiamo perso ovviamente posti in graduatoria nella comparazione con gli altri paesi, e soprattutto ci siamo giocati quote di crescita del PIL e abbiamo ipotecato anche la minor crescita futura, se non si cambia linea. Avevo interrotto Giancarlo Capitani, che è amministratore delegato di Net Consulting e coordina il rapporto Assinform, perché non si sentiva più cosa dire. Stava concludendo Capitani dicendo, ricordandoci il piano, la seconda versione del piano della metà del 2010 della Spagna, dicendo che siamo indietro rispetto anche al primo lanciato nel 2004, e poi non si è più sentito, diceva? Dicevo che l'Italia ha una grandissima urgenza di un'agenda digitale che sia coerente peraltro con l'agenda digitale indicata dalla Commissione europea, per avere uno strumento, anzi l'unico strumento, il più importante, che consenta al nostro paese di agganciare rapidamente la ripresa. E questo richiede evidentemente azioni di sistema a tutti i livelli, che riguardino la digitalizzazione della pubblica amministrazione, la formazione, i piani per la ricerca e sviluppo e l'innovazione che ricordava Fuggetta, i grandi progetti paese, la previdenza, il turismo, la mobilità e poi ovviamente la banda larga. Direi che c'è una componente nuova che sta nascendo dal basso, che io ritengo molto interessante, che è quella delle città digitali. Ci sono molti progetti di digitalizzazione delle città che in questo momento stanno determinando, a mio parere, proprio un movimento molto interessante di innovazione dal basso. Come Venezia, Firenze, eccetera. Proprio questa settimana c'è una importante iniziativa ennesima a Venezia sotto questo profilo. E in effetti, se si fa un paragone, chiunque, milioni di italiani che girano in Europa e nel mondo, possono fare rapidamente un paragone su come nelle grandi città dei maggiori paesi le aree wifi libere sono enormemente più estese di quanto non capiti, tanto per essere chiari, in questa stessa Milano, capitale morale dell'impresa e della crescita economica italiana. Quintarelli, io qui ricevo raffiche di sms, naturalmente i nostri ascoltatori, che ci dicono, esempi: abito a 8 km da Vicenza in pianura, non siamo raggiunti da DSL, una vergogna; in zona industriale udinese non abbiamo la DSL, una vergogna, e così via. Stiamo parlando dell'avanzatissimo nord-est. Quando si dice banda larga, vogliamo ricordare a chi magari non è un esperto di tecnica e velocità di trasmissione di dati, che cosa davvero si intende rispetto a quale realtà del nostro paese? Perché un conto è il cosiddetto digital divide, altro conto è la banda larga vera. Ecco. Beh, per banda larga si intende un collegamento permanente ad internet con una velocità di banda, diciamo, superiore ai 2 megabit, questo è l'accezione comune. Ci sono ancora vaste parti dell'Italia. L'Italia è un paese molto frammentato come centri urbani, quindi ci sono molti centri urbani che rimangono al di fuori, e quindi naturalmente è necessario in qualche modo spingere per andare a colmare questa cosa. Ci sono delle iniziative fatte dai privati. Poi ci sarà il passaggio successivo, che è quello che sarà la banda ultralarga, che noi da 2 anni, dalla data del rapporto Caio, stiamo discutendo, però in alcune parti del mondo è vero che noi abbiamo una quantità di rete in fibra oggi superiore a quelle di altri paesi, però è roba fatta anni fa, oggi siamo fermi sostanzialmente, fermi, mentre gli altri paesi crescono. In questo senso va anche il memorandum of understanding del ministro Romani, fatto con tutti gli operatori di telecomunicazione. Comunicazione. Ecco, io volevo anche sottolineare una cosa: in Italia noi abbiamo le capacità e le competenze per fare queste cose, non è che ci manca, e anche la fantasia e anche l'informazione, cioè sappiamo come si fanno, spesso andiamo a farle all'estero, se poi non riusciamo a farle in Italia anche i giovani se ne vanno, cioè ci sono comunque alcune aree di eccellenza. La PIA al suo interno ha fatto delle cose notevoli, ma qui non si tratta solo di limitarsi ad un settore, ma di dare uno sguardo organico. So, la dichiarazione telematica è un punto, cioè è stato fatto anni fa in Italia ed è un punto di eccellenza tuttora nel mondo, cioè questo dimostra come siamo in grado di farlo. Ah, fermo un secondo, perché proprio nel suo blog lei 2 giorni fa proponeva l'esempio: chiunque sia creditore, stiamo parlando della regione Lombardia, ma riguarda praticamente tutte le regioni, per cifre superiori fino a pagamenti dell'anno fa 10.000, da quest'anno diventano 5.000 euro, quindi praticamente qualunque somma vi debba, se siete un fornitore, una regione, ha ricevuto una comunicazione in queste settimane, perché praticamente per l'equivalente di 2 mesi, se uno fa la somma dei giorni lavorativi che si prende, dovete sapere che le regioni sono obbligate, per passare in cassa dalla competenza la regolazione del loro debito, a controllare se voi che siete fornitore e che vantate un credito avete delle cartelle tributarie emesse, perché in quel caso ovviamente il pagamento non avviene, nel senso che, come si vede, lo Stato si piglia la garanzia a proprio vantaggio se c'è un rapporto tra creditore e debitore che non funziona. Naturalmente, se io come imprenditore in credito fiscale, col cavolo che lo posso attuare allo stesso maniera, ma lo Stato per sé se lo prenda, e questa è la bella simmetria di sua maestà lo Stato rispetto a me che sono suddito e sono il suo contribuente. Detto questo, in questi giorni avrete trovato una comunicazione, o il vostro commercialista vi avrà avvisato, che per un bel po' non li vedete, e si aggiunge naturalmente al ritardo dei pagamenti pubblici, perché la piattaforma su cui la regione deve passare per controllare se voi avete delle cartelle tributarie e procedere poi a pagarvi, e la manutenzione o comunque l'upgrading del software di questa piattaforma, che è di quell'altro straordinario esempio di efficienza, virtù ed equilibrio che si chiama Equitalia, ha bisogno di quanti giorni, Quintarelli, per 23 giorni per fare, per mettere in linea l'upgrade nuovo. L'upgrade 23 nuovo. Giorni di sospensione. E lei ha fatto un esempio che mi sembrava straordinario sul suo blog, di come nel 1972 che cosa avvenne e con quale intervallo? Beh, nel 1972 l'aeroporto di Monaco, di Baviera, 70 voli all'ora, ha spostato tutto il traffico dalla notte alle 5 di mattina dall'aeroporto all'aeroporto nuovo, mobilitando esercito e così via. Cioè, le cose si possono fare, ma non è che noi non sappiamo farle, no, è chiaramente questa un'area di disattenzione. Probabilmente il dirigente incaricato di questa cosa manco si è posto il problema del fatto che tutte le migliaia di aziende che dipendono da questi soldi sarebbero stati bloccati i finanziamenti e per 23 giorni, che vuol dire un mese sostanzialmente, non venivano un mese in più non venivano pagati. Vabbè, io mi risparmio il commento. Posso dire una cosa ancora? No, sul diverso livello di attenzione verso questi temi da parte dei governi, no? ma non è dei governi, è della politica tutta. In Australia ci sono state le elezioni l'anno scorso e le due coalizioni non avevano voti sufficienti per formare il governo. Il governo si è formato con i parlamentari indipendenti e l'argomento di sintesi sul quale sono riusciti a fondare il governo era che tipo di telecomunicazioni nuove avremo, che tipo di cose. Cioè, una cosa dove con il dibattito pubblico sui giornali, talk show, una cosa da noi impensabile, no? Cioè, negli Stati Uniti. Da noi impensabile, perché significa innanzitutto che il 99% diventa le televisioni dell'ex presidente del Consiglio, dell'attuale presidente del Consiglio. Lei non l'ha detto, ma insomma, per essere chiari, non lo dico. Non è un tema che mi appassiona. Negli Stati Uniti uno studio della Kauffman Foundation sui dati dell'US Census Bureau dice che le start-up sono le uniche responsabili dell'aumento di occupazione negli Stati Uniti, con 3 milioni di posti di lavoro nuovi all'anno contro le grandi aziende che ne perdono uno. Quindi c'è un tema. Prima Capitani parlava del fatto della riduzione dei costi. Ecco, spesso cioè da noi le tecnologie vengono viste come un costo, non come un fattore abilitante di crescita. Cioè, e questo naturalmente poi ha un impatto anche sugli stipendi, no? Perché ci sono persone che vivono, cioè 1000 euro al mese per molti sono già un miraggio, e alla fine questi ragazzi che cosa fanno? Se ne vanno dove gli stipendi sono il doppio dei nostri, e quindi si innesca un circolo pernicioso. Allora, si è collegato con noi, lo ringrazio, Francesco Sacco, che è Managing Director del Centro di Ricerca ENTR, cioè il Centro di Ricerca Imprenditore dell'Università Bocconi. Buongiorno e grazie. Buongiorno, grazie a voi. Allora, dal suo punto di vista, invece, rispetto alla finestra di professionalità e competenza di cui si occupa e che porta avanti, questo appello e le esperienze maturate e comparate in chi analogamente fa cose analoghe alle sue in altri paesi, che cosa la inducono a credere? Che cosa si potrebbe rapidamente fare? Ma una strategia per dare un'agenda digitale al paese potrebbe poggiare su quattro presupposti. Partiamo innanzitutto da una considerazione di fondo. Noi siamo tra le prime 10 economie del mondo, però se guardiamo qual è lo stato, l'aveva già ricordato Capitani nel suo intervento, del internet in Italia, noi siamo indietro. Se guardiamo un indice sintetico come quello del World Economic Forum Network Readiness, noi siamo al 48esimo posto. Ora, prima o poi questi due numeri si salderanno in un punto che è intermedio. Dobbiamo decidere adesso in questa fase che cosa fare. In realtà la strategia che dobbiamo darci è un po' una strategia eccezionale, perché se noi mettiamo in campo semplicemente una strategia lineare, cioè ripercorriamo quello che hanno fatto, stanno facendo gli altri partiti, noi siamo indietro, rimarremo indietro. Il nostro futuro è un corridoio che ci condanna, dove noi non riusciremo a guadagnare le posizioni che invece in questo tempo, in cui non è stata una priorità nazionale, queste posizioni che abbiamo perso non verranno più capitalizzate. Allora dobbiamo fare un qualche cosa che è un po' eccezionale, anche questa è un po' la natura della... Lei ha detto rapidamente quattro cose. La prima, dobbiamo agire sulle infrastrutture. Dobbiamo cercare non semplicemente di ridurre il digital divide e portare la banda larga, dobbiamo prepararci per il futuro. Esatto. Ultrabanda, fibra. Poi non bastano le infrastrutture, perché se noi abbiamo solo infrastrutture, poi queste qui rimarranno vuote se non ci sono servizi che sono adeguati a questo. Ma preparare i servizi per queste infrastrutture in fibra non è solo un compito... Questo lo dico perché da sempre si è sentito per anni dire: ma perché c'è bisogno di tutta sta banda? In definitiva poi uno va a vedere i servizi davvero richiesti dal mercato, dagli operatori eccetera, e tutta sta grande banda non c'è. Il problema è che senza la grande banda non nascono... non nasce la domanda, noi siamo indietro nella concezione della domanda da parte delle imprese e così via. Comunque criticano anche sul tema della fibra, quindi della ultrabanda, perché dicono semplicemente è una questione di velocità e quindi serve chi è che vuole scaricare più veloce oppure vuole vedere la televisione via internet. Ma non è vero, in realtà la fibra ha un tasso di guasti enormemente inferiore a quello della DSL, per esempio un per mille il ratio. Se noi paragoniamo il dato ufficiale per l'Italia 24%, vediamo che ci sono tre ordini di grandezza di differenza. Chiarissimo. Terzo punto. Il terzo punto è questa cosa qua deve essere fatta alfabetizzando il paese. L'Italia è un paese vecchio come vecchio anche il Giappone, siamo più o meno allo stesso livello, ma il Giappone è davanti a noi, ha cominciato per primo insieme alla Corea a darsi una strategia digitale. E anche se sono un paese vecchio e tradizionale, conservatore fondamentalmente come siamo noi, e che dalla politica ha avuto ancora meno perché hanno una situazione decisamente bloccata, il Giappone è riuscito a darsi un valore culturale all'innovazione che gli ha permesso di saltare tante di quelle posizioni che invece noi adesso ci troviamo davanti, e avere un paese che è moderno. Chi che va in Giappone vede ovunque tecnologia, non si può vivere senza avere a che fare con la tecnologia. Il quarto punto è che se noi veramente vogliamo rimontare questa distanza, ecco, l'agenda deve fare un conto con la natura del paese, cioè non può essere uno sforzo solo del governo, non può essere uno sforzo solo dei privati, ci deve essere un patto trasversale che mette insieme le università, le associazioni, i privati e il pubblico per fare un salto quantico e recuperare tutto quello che abbiamo perso fino adesso. Benissimo, qualche telefonata, sentiamo per esempio, dunque in questo momento si è bloccato, vedo un Marco dalla provincia di Alessandria. Sì, buongiorno. Prego, buongiorno a lei, rapido. Buongiorno, sì, ovviamente sono stato colpito dal fatto che siamo tra i 10 paesi che non hanno un piano digitale. Gli esempi sono l'Inghilterra e la Spagna, che sono paesi che puntano adesso, a cui noi guardiamo anche come struttura di Stato, federalismo, eccetera. Dico, ma se non ci siamo riusciti ad oggi, la nostra organizzazione col federalismo peggiora? Riusciremo a fare qualcosa di meglio o andiamo sempre a peggiorare, visto che mancheranno magari ancora di più delle politiche di coordinamento su questo? Come Marco, mi pare di capire che lei vuole che noi parliamo di federalismo mentre qui si parla di agenda digitale. Gli esempi comunque più recenti, come ha sentito, sono invece anche di iniziative dal basso per tentare almeno di colmare un po' il digital divide. Quindi da questo punto di vista, no, oggi il tema in questa trasmissione non è il federalismo, capisco che la sua preoccupazione, però sentiamo come la pensa Giovanni da Bari. Giovanni, prego. Sì, buongiorno dottor Giannino. Dica. Io volevo un po' rispondere, mi sono sentito chiamato in causa dal vostro ospite che diceva che le imprese investono poco, sì. Sono colpevoli perché investono poco in information technology. Sì. In realtà io penso che lei lo conosca molto bene, il rapporto Paying Taxes 2011 della Banca Mondiale, che dice che le imprese italiane sono gravate per il 70% di tasse contro il 40% delle imprese inglesi. È chiaro che quando uno paga il 70% di tasse diventa difficile investire in tecnologia ed investire in sviluppo. La percentuale è sul totale degli utili lordi, no, ma questo non c'è dubbio, con me sfonda una porta aperta, ma approfittiamo del fatto di avere in studio Fuggetta per sapere del suo punto di vista. Quello che prima dicevo io del credito d'imposta per la ricerca può essere un modo per dare sostanzialmente una riduzione delle tasse mirate all'innovazione, quindi se oggi forse non siamo ancora pronti o non si è in grado, comunque non si vuole dare una riduzione diminuzione diffusa delle tasse sulle imprese, quantomeno su questo, su questo si può fare, perché è focalizzato a un obiettivo preciso e puntuale, quindi per certi versi è una strada pragmatica che si potrebbe percorrere. Come vede Giovanni, abbiamo la soluzione, poi certo basta non farla col click day, che praticamente penalizza, esatto, proprio esattamente coloro che hanno meno velocità di trasmissione e peggiore infrastruttura, perché è ovvio che arrivi prima, arrivi dopo nell'unità di tempo frazionata del secondo. Eccoci tornati in studio, stiamo parlando dell'appello che trovate oggi a pagina 8 al Corriere della Sera. Diamo all'Italia una strategia digitale, potete seguire sul sito www.agendadigitale.org non solo i documenti, gli approfondimenti dell'appello, ma la strategia, le iniziative che nasceranno, perché i firmatari sono tanti, sono importanti e non molleranno. Ancora qualche telefonata, poi torniamo con i nostri ospiti. Sentiamo Beppe che ci chiama dalla provincia di Ragusa, se leggo bene. Prego Beppe. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo portare la mia testimonianza di come il problema digitale, diciamo così, mi influisce pesantemente sul lavoro. Io di mestiere faccio il giornalista di mattina e il blogger la sera. Io vorrei sapere se preferite sapere i miei problemi da giornalista o quelli da blogger, perché sono entrambi gravissimi. Vabbè, ma rapidamente? Rapidamente, come blogger faccio metà del mio stipendio più o meno da questa attività, ho una connessione che è reale, mi dà 70k al secondo e 35 a salire. Capirà bene Giannino cosa vuol dire caricare un video con 35k la sera. Io ho fatto due conti rapidamente, perdo un'ora e mezza al giorno a causa di questa situazione, quindi se io avessi una connessione normale, normalissima come ce l'hanno tutti, come dovrebbero averla tutti, io o lavorerei un'ora in meno o in quell'ora guadagnerei di più. Di giorno lavoro in una redazione privata, di una TV privata, e lì la connessione è buona, però sto con un Pentium 3 sul quale praticamente non posso vedere neanche i video di YouTube, per capirci, a questi livelli. Posso chiedere una cosa, ma nel contratto con l'operatore, non faccio a nome, non voglio sapere questo, però contratto con l'operatore con cui a casa realizza le sue cose di blogger, in teoria che tipo di contratto è? Quanti mega gli garantiscono? Allora, in teoria il contratto è il classico contratto Telecom Alice da 4 mega, lo possiamo fare il nome semplicemente perché è il classico contratto anti-digital device, quindi ufficialmente 4 mega, in realtà il minimo essenziale, da me ancora meno di questo minimo essenziale. Va bene, mi pare di capire che il suo caso sia stato utile, perché non è proprio del tutto isolato, per così dire. Possiamo dare una risposta al volo, Quinta Renni? Ma sì, lui ha raccontato un esempio della sua attività di giornalista e di blogger, però il tema non è che si limita solo al fatto di pubblicare in rete, cioè oggi è normale trovare le istruzioni per l'uso delle macchine, le telemanutenzioni, cioè se noi vogliamo vendere una macchina in Cina dobbiamo spiegargli come si ripara, dobbiamo avere a disposizione il video, cioè oggi diventa normale nel resto del mondo a mettere i video che istruiscono a usare le macchine, i dispositivi. Io l'ho fatto, ho comprato un irrigatore da una società inglese, cioè avevo un guasto e c'era il video che spiegava come ripararlo. Questa è la nuova normalità, cioè non esiste più il manuale di carta, chiunque di noi oggi compra un computer, una volta c'era il manuale con la guida d'uso, adesso ci sono due fogliettini ed è tutto online, ed è tutto video, cioè è questo, cioè non è il video in sé, non è il fatto del video o che mi guardo il filmato su YouTube, è il fatto che questo è il nuovo modo di comunicare delle aziende. A proposito di questa modalità attraverso internet, domanda per Fuggetta. Da anni, ministro Brunetta insiste molto sul fatto che l'informatizzazione, l'agenda digitale della pubblica amministrazione e così via, ed è una componente fondamentale, l'abbiamo richiamato, di quello che va fatto, però dall'altra parte, lo dico come osservatore giornalista economico, se uno va a vedere come concretamente è proceduto l'espandersi nella pubblica amministrazione italiana, perché c'è il problema del centrale e poi delle periferie, di procurement, cioè la modalità attraverso internet di estendere attraverso gare sempre più ampie, estese a fornitori non solo su base di limitrofa, ma italiani e internazionali, volti a naturalmente ottimizzare il costo dell'acquisizione attraverso nuove tecnologie. In realtà, per chi conosce la storia di Consip, per essere chiari, sa che ciò che è andato incontro è una ridefinizione quasi anno per anno di ciò che si poteva acquisire attraverso questa modalità, con la periferia che si è tirata indietro dicendo: ma perché noi dobbiamo accettare le procedure uniche dello Stato? Lo Stato che di anno in anno prima provava a estendere per tentare di ottimizzare risparmi, poi di volta in volta riapriva modalità diverse. Che cosa è più importante? I grandi progetti, eccetera, o per esempio estendere in maniera trasparente i procurement? Ma credo che siano due filoni da perseguire. Parto dal primo, quello dei grandi progetti o comunque del finanziamento di grandi iniziative. Cioè, lo Stato è un acquirente di servizi importanti e quindi da un lato è un attore importante perché aumenta la capacità di competitiva del territorio. Dall'altro compra e quindi comprando stimola il mercato. La cosa importante sui grandi progetti è che non bisogna dare i soldi attraverso bandi o attraverso, come dire, finanziamenti alla ricerca e all'innovazione di tipo applicativo. Bisogna comprare cose che servono. Quando le Ferrovie dello Stato hanno comprato il pendolino, hanno comprato un treno che doveva andare veloce tra Ancona e Pesca e Roma, credo. E o si risolve il problema o la soluzione non serve. Quando si fanno i grandi sistemi per la sanità e così via, bisogna pensarli in funzione di obiettivi precisi rispetto ai quali l'amministrazione e i dirigenti sono responsabili. Cioè, se faccio il sistema sanitario, in due anni devo ottenere certi tipi di risparmi, allora devo comprare orientato a quello e devo pensare che comprare un sistema o acquisire un sistema di queste dimensioni non è soltanto il costo iniziale, ma richiede in realtà un costo di gestione ed evoluzione. Se no faccio l'acquisto e dopo un po' la cosa si smonta perché non viene più manutenuta e fatta evolvere. Per quanto riguarda poi gli acquisti invece più minuti, quello che si chiama i procurement, cioè l'acquisto diffuso, bisogna stare attenti che il procurement deve essere un mezzo ma non deve essere un vincolo, cioè non deve diventare una gabbia all'interno della quale in realtà sparisce la competizione, sparisce la capacità poi di ottenere un risparmio, perché oggi il mercato potrebbe garantirmi un risparmio maggiore, diventa semplicemente un vincolo e una specie di piccolo monopolio o di piccoli monopoli che mi bloccano. E questa è spesso stata l'obiezione che Consip si è sentita rivolgere. Sacco, facciamo ancora una riflessione al volo. Abbiamo parlato di iniziative positive venute dal basso nel mondo della pubblica amministrazione e città italiane. Nel mondo delle imprese, guardandole dall'osservatorio della Bocconi, è stato analogo, maggiore ciò che si è verificato, in misura minore, oppure si è preferito attendere che l'agenda digitale nascesse e non è nata? Cosa ha visto lei? Ma ci sono molte imprese che da internet hanno creato grandi benefici, ne hanno ricevuto grandi vantaggi, ma dalle cose più semplici, penso per esempio al gruppo Barilla, hanno messo in piedi una strategia per utilizzare Facebook come canale di comunicazione con i loro clienti, hanno investito quantitativamente un ammontare molto basso, ne hanno ricevuto dei vantaggi enormi. Penso per esempio agli effetti del cloud computing. Il cloud computing aiuta le aziende a avere enormi risparmi e a semplificare molto le proprie strutture. Ci sono aziende, gruppi petroliferi italiani, giusto per non far nomi, che hanno avuto dei saving notevoli in pochissimo tempo. Hanno cloud computing, lo dico per chi non è un addetto del settore, è uno dei nuovi drive su cui si sta andando. Significa l'esternalizzazione su server non propri di gran parte delle procedure contabili, amministrative, che tradizionalmente sono sempre tenute dentro le aziende. E invece col clouding, cioè col sistema a nuvola, questa è la frontiera che abbatte molto i costi, aumenta l'efficienza, ha qualche problemino di sicurezza, ma in definitiva poi le nuove tecnologie servono anche esattamente a risolvere problemi di questo tipo. Quintarelli, dopo l'appello? Dopo l'appello, un piccolo convegno a Roma, come ho detto, il 9 di febbraio, incontri con alcuni esponenti politici che si sono già detti interessati per andare a dare qualche idea, anzi sul sito c'è una sezione appunto nei contatti che invita le persone a mandare delle idee da portare e poi stay tuned, adesso non tiriamo fuori tutte le carte. Esatto. Subito. Comunque, sito è www.agendadigitale.org e l'appello è oggi pagina 8, grazie a Quintarelli, a Fuggetta, a Sacco e a Capitani, e appuntamento a domani. Temo che domani effettivamente della sponda nord del Mediterraneo dovremo occuparcene, perché è un problema di casa nostra. Inutile illudersi, ma intanto leggetevi l'appello, diamo all'Italia una strategia digitale. A domani, Linea Giornale Radio.